Cristina Carpinelli. Potrei raccontarti il mio primo giorno di scuola. Il grembiule, il cestino, mia madre, le foto davanti all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese. È il 1977. A Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, nasce Dario Brunori, un ragazzino allegro, figlio di imprenditori calabresi, con i piedi a terra e i sogni che corrono via veloci e leggeri. Dario suona la chitarra e coltiva il suo di sogno, che però non avrà il coraggio di far decollare, fino a quando non perderà una persona importante, il padre. E forse questa è la sua prima volta. Questa è una domanda che so che ti hanno fatto praticamente tutti. Da cosa nasce il nome che hai dato al tuo essere artista? Brunori Sassi, intendi dire, la mia ragione sociale, perché avevo bisogno di una ragione sociale. Diciamo che ho almeno 22 risposte possibili a questa domanda, scegliamone una dal cilindro, la 11 tipo, che è perché volevo scrivere canzoni a scopo di lucro, volevo finalmente che fosse manifesta questa che è l'intenzione vera di ogni artista, cioè non fare arte, ma se possibile lucrare sul proprio talento. Questo è un po' un manifesto in polemica con quello che succede nella discografia italiana, no? Di fatto. Ah no, in realtà no, io non sono, in realtà io sono figlio di imprenditori, quindi il lucro a casa mia è stato anche motivo di benessere e mi ha condotto sin qui, quindi non sono un critico a priori. Diciamo che sono, quello che dico ironicamente tende a sottolineare secondo me l'eccesso, no? L'idea che ogni cosa venga misurata solo ed esclusivamente secondo questo parametro. Ecco, questo in qualche modo mi sento di bonariamente, perché alla fine lo faccio sempre con un'ironia che tende a non prendersi sul serio, però a pensare seriamente alle cose. Lo faccio, insomma, mi piace sottolineare questo aspetto, questo eccesso. E a proposito del tuo trascorso, quindi tu hai citato anche la tua famiglia, volevo sapere, per esempio, perché hai scelto, tu hai studiato economia e commercio, sì. Perché hai scelto economia e commercio? E lì è stata una scelta un po' legata proprio da una parte a una formazione familiare che aveva... che è una cosa che tra l'altro vivo io, questa dicotomia fra una parte pragmatica che proviene dal mestiere, quindi mio padre era sempre stato un imprenditore in vari settori, in particolar modo quello del laterizio, e quindi c'era questa idea a casa comunque di fare qualcosa con i piedi per terra, e dall'altra però anche contemporaneamente, forse in modo schizofrenico, sempre nelle stesse persone che erano i miei genitori, un'attitudine invece molto interessata al, non tanto all'arte, perché poi era più una visione legata alla fantasia, all'immaginazione, all'ironia, alla creatività, però ecco, veniva vista più come un aspetto diciamo da tenere come passione, ma che sicuramente non aveva a che fare col mondo pratico. E quindi ho vissuto questa cosa e ho scelto di fare economia e commercio per mantenere i piedi per terra, perché il resto della mia vita non lo era, e quindi in qualche modo... E la musica mentre studiavi economia e commercio dove stava? L'ho sempre vissuta con un'attitudine molto intima, ecco, ritornando a quello che ti dicevo prima, cioè la mia idea di musica era una passione legata al mio vissuto personale, quasi privato, nel senso che certo mi esponevo come tutti, anche a scopi pratici, lo dico spesso, ha detto anche nell'ultimo spettacolo che ho fatto, l'idea della chitarra per poter, perché io sono sempre stato un appassionato della chitarra come strumento per poter anche raggiungere gli altri e le altre in particolar modo, però e ci riuscivi? Ma insomma i risultati erano veramente, non ne parliamo, ecco, anche in quel caso purtroppo la pratica veniva rotta dalla grammatica. E quindi in quel caso purtroppo non, è una parentesi che tenderei a non, di cui non vorrei parlare per mantenere un tono allegro della discussione. No, diciamo che questa cosa l'ho sempre vissuta come una cosa intima e quindi non mi vedevo né nella vita quotidiana, cercavo di portare troppo avanti questa cosa, quindi non mi sono mai circondato per esempio di artisti o ho cercato luoghi in cui trovare altre persone con cui condividere. Era una passione molto solitaria. Poi negli anni successivi proprio alla laurea invece mi sono accorto che stava diventando una necessità quella di comunicare con altre persone, e da lì è cominciata una vita che di solito gli altri artisti iniziano intorno ai 15 anni, 14-15 anni. Io l'ho cominciata a 26-27 e infatti ho iniziato tardi. E quali sono i vantaggi di iniziare tardi, come dici tu, anche se in realtà eri giovanissimo? Il fatto di trovare una dimensione che ti arricchisce, perché ovviamente è un percorso in cui quando cominci a trovare altre persone non trovi solo altre persone, hai altre esperienze che moltiplicano e velocizzano la tua visione, no? E quindi le tue esperienze, quindi la tua visione del mondo, e anche ti danno degli stimoli. Diciamo che io sono abbastanza di mio tendente al controllo anche su quello che voglio, non voglio, quello che mi piace ascoltare. Invece di trovare la possibilità di incontrare, quindi cercare l'incontro con altre persone, mi ha dato la possibilità anche di creare spazio, quindi di ampliare lo spazio di fronte a me. E anche gestire l'imprevedibile, no? Perché l'incontro è anche... Certo, sì, infatti è anche un modo per limitare la mia tendenza al controllo, perché ovviamente non puoi controllare gli altri come riesci, e anche a fatica a controllare te stesso. Senti, comunque tutto questo è arrivato quando tu eri già uscito dalla Calabria, anche diciamo così idealmente, o questo percorso anche artistico è iniziato? Beh, in realtà è iniziato in Calabria, ma dopo un periodo fuori dalla Calabria, perché io ho vissuto per più di 10 anni, perché ho studiato a Siena, quindi sì, sono stato in Toscana, e sicuramente quel periodo è stato il periodo in cui, da una parte, ti ripeto, ho continuato a vivere questa duplice visione, quindi comunque ho studiato economia, mi sono laureato in economia, eccetera eccetera. Poi però parallelamente, sempre con più forza, cominciava ad emergere questo desiderio di trovare uno spazio maggiore per la mia passione musicale o artistica, come lo vogliamo definire, e lì ho incontrato delle persone tra le quali anche Matteo, per esempio, che è la persona con cui condivido non solo il percorso musicale di Brunori, ma anche l'etichetta discografica che abbiamo fondato insieme. E lì ho cominciato a capire che questa cosa poteva diventare, anche in quel caso, vedi, con questa visione, un mestiere. Quindi ho cominciato a capire cosa c'era dietro e a far muovere le due cose, sia la parte immaginativa che quella del quotidiano. Poi però Brunori Sas è nato in Calabria, perché insomma, l'ho detto milioni di volte, poi purtroppo è venuto a mancare mio padre in un periodo in cui io ero anche in una fase molto interlocutoria della mia vita. Sono tornato giù un po' in modo sentimentale, perché mi sembrava che fosse il momento di pigliarsi le responsabilità di un figlio che doveva occuparsi della famiglia, perché da quella cosa dipendeva il sostentamento di mia madre. Tu eri primogenito? No, sono l'ultimo, però i miei fratelli erano impegnati in lavori seri, mentre io ero quello un po' così, e quindi, ma me lo dicevo da solo questo, e non che fosse una visione loro, anzi, devo dire la verità, e sono sempre stati loro ad avere un'altra visione su di me che io non avevo. E quindi in quel momento ho cominciato a lavorare in una cosa che mai avrei pensato di poter fare, quindi vendere mattoni, cemento, materiali da costruzione ai muratori cosentini della provincia di Cosenza. E in quel periodo sono venute fuori le canzoni di Brunori Sas, così, io lo dico sempre, come il blues nei campi di cotone. La mia pigrizia soffriva così tanto di questo dover lavorare che è nato il disco. Però ripeto, sicuramente questo percorso è figlio di tutte e due le esperienze. Da una parte quella che mi porto dietro, perché sono nato e cresciuto e vivo ancora in Calabria, quindi questa impronta c'è, anche non fosse altro che per una visione della vita che comunque ti rimane. Dall'altra, sicuramente essere uscito fuori dalla Calabria mi ha fatto capire altre cose, mi ha dato la possibilità, anche se vuoi, di di pensare a quello che faccio non in un'ottica strettamente collegata al mio territorio, quindi proprio conoscere altre esperienze nel senso più ampio del termine. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco sempre con Dario Brunori, in arte Brunori Sass. La prima volta. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24 Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! La prima volta. Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto. Quella di Dario Brunori è la storia di un ragazzo calabrese e questo particolare non deve essere sottointeso perché il sud in questa storia è molto presente, anche se Dario è stato capace di andare oltre e coinvolgere tutti. Nelle sue canzoni ci sono infatti cronache minime, sentimenti apparentemente piccoli, momenti che senza saperlo cambiano la nostra vita. Dario li fotografa e li mette in musica. L'effetto è meraviglioso, ma bisogna sempre partire dalla Calabria. La cosa che mi dispiace spesso è proprio lo stereotipo, e mi dispiace quanto più questa cosa viene avvalorata e sostenuta dalle persone del territorio. Ecco, questa cosa qui un po' mi spiace perché penso che ci siano tante cose oltre allo stereotipo, che comunque se c'è è perché trova un fondamento di verità, quindi sicuramente abbiamo delle problematiche, delle criticità legate alla criminalità, sicuramente abbiamo l'anduia, per esempio, che viene spesso in molte trasmissioni radiofoniche, vengo presentato sempre con a fianco l'anduia, che c'è ed è davvero buonissima, tra l'altro, però ci sono anche tante altre cose e mi dispiace quando... Cioè, non sono tanto stupito quando lo fanno persone che non sono del posto, ma le persone del posto che invece si appoggiano a delle a luogo comune, no? Anche magari a luogo comune criminale, no? Anche scherzando e ridendo, no? Dicendo, non so, facendosi anche forti, no? Magari in certi contesti di essere la regione con una delle organizzazioni criminali più forti al mondo. Ecco, questa cosa qui un po' mi dispiace, però non sento la responsabilità perché non mi sento, ecco, di dover, sarebbe, diciamo che io sono megalomane ed egocentrico, però ecco, sarebbe troppo anche per me sentirmi responsabile oppure rappresentante di una regione. Cosa dicono invece i tuoi amici, i tuoi fratelli, tua mamma di questo tuo percorso, del fatto che stai avendo un grosso successo, ormai fai... Ma guarda, io diciamo che vivo questa cosa veramente in un modo molto... forse perché ci sono arrivato tardi, la vivo sempre un po' con il sorriso, che questo sì che è figlio del sud, cioè nel guardare le cose, anche i percorsi di successo con dell'ammirazione, ma anche con un'idea, no, di sornione, con uno sguardo sornione. Questo è un po' quello che succede con i miei amici, ovviamente sono tutti molto felici, anche mia madre particolarmente, di questo percorso. Si stupisce mia madre, questo è riprova del fatto che ha sempre avuto una grande stima, però si stupisce sempre, soprattutto si stupisce delle canzoni, questa è una cosa che mi piace, la sorprendo, mi fa, ma come te, mi dice proprio indietro, ma come ti è venuta questa, perché per lei è sorprendente che abbia scritto determinate cose, quindi questo mi fa piacere, più del fatto che sia contenta dei premi e del successo, il fatto che ancora si sorprende. Perché sono testi bellissimi, anche perché sono delle cronache minime, no? Di vita. Ognuno di noi ci si può, insomma, accomodare nelle tue canzoni e emozionare, no? Ci sono alcuni testi che sono, secondo me, senza, ecco, senza svilire la quotidianità, senza, anzi dandogli quella poesia che poi... Io non riesco, guarda, dico la verità, è una cosa che, di cui non mi rendo neanche tanto bene conto, forse questo è anche un bene, nel senso, è una delle poche cose su cui non cerco di non metterci troppa testa, perché purtroppo ho la tendenza, come dicevo prima, c'è una parte razionale dentro di me che tende un po' a volte a voler fare più del dovuto, anche in quel caso devo frenare un eccesso, che è l'eccesso di cervello nelle cose che faccio, e nelle canzoni fortunatamente questa cosa non avviene, perché mi sono reso conto che vengono fuori da una parte della mia testa che su cui non ho controllo, e fortunatamente questa cosa mi tira fuori è una cosa che emoziona anzitutto me. Lo so che sembra una banalità, però non riesco a scrivere cose che non mi abbiano suggestionato, che non mi abbiano emozionato, nella stessa misura che poi ritrovo spesso nel feedback, nelle impressioni delle persone. Quindi in questo senso sono molto contento, perché comunque creo un legame fra, appunto, anche parti di me che non conosco, cioè sono anch'io un ascoltatore di una parte di me. Questo, bellissimo, diciamo, è quello che avviene con le canzoni. Volevo chiederti una cosa anche per dare un senso al titolo della nostra trasmissione. Sì, esatto, andiamo a metterlo. Volevo chiederti se ti ricordi il primo concerto, però quello vero, tuo primo concerto, che cosa hai provato, insomma, cosa... È il primo, proprio primo concerto, se parliamo proprio del primissimo, cioè un ricordo molto bello, perché è stato un concerto, ovviamente parliamo di adolescenza, quindi non di, niente di professionale. Però me lo ricordo, se tu mi dici il primo concerto mi ricordo quello, più che quello che magari era fatto con i crismi di un concerto. Cioè, non mi ricordo il primo concerto del Bruno Risas, me lo ricordo, per esempio. Però è un ricordo meno forte rispetto al primissimo concerto, che invece era in una sala, neanche parrocchiale, una scuola materna, però per una cosa parrocchiale, e noi ci sentivamo, eravamo un trio e ci sentivamo molto molto fighi, perché avevamo scandalizzato con la nostra performance, poi nella nostra testa, perché in realtà avranno detto: ma guarda, questi tre fessi. Per noi avevamo creato uno scandalo all'interno di questa comunità parrocchiale, perché facevamo il rock, facevamo le chitarre distorte, facevamo casino, e questa cosa ci sembrava iper sovversiva. Però ti ripeto, è assolutamente una cosa, una nostra immaginazione, perché a ripensarci in realtà molti, anzi, sono stati felici di vedere questi tre ragazzi, per cui questo è il ricordo più forte che ho. Bello. E una ultima domanda che ti volevo fare invece è: tu parli spesso anche soprattutto nelle tue canzoni, poi quando sei costretto dalle interviste lo fai anche di tuo padre, di tua mamma, però in realtà le cose vere arrivano attraverso i tuoi testi. Volevo chiederti se ti sei mai immaginato di avere un figlio, e quali potrebbero essere le cose più importanti che tu vorresti lasciargli, insegnargli? Questa è una domanda abbastanza complessa. Certamente mi sono interrogato anche perché l'età avanza, poi comunque io nutro un grande amore per i bimbi in generale, ovviamente poi quelli con cui ho più a che fare sono al momento i nipotini, e quindi sicuramente è una gioia che ha a che fare davvero con qualcosa di spiegabile. E in questo momento della mia vita mi interrogo sulla possibilità anzitutto di diventare padre, e se mi chiedo che padre potrei essere, ti dico la verità, lascerei un po' l'improvvisazione, cioè nel senso, ho come l'impressione che comunque progettare troppo non abbia molto senso, e soprattutto sia poco rispettoso del figlio che vai a fare. Quindi nota che c'è il figlio, ti adatti devi essere attento, ecco, consapevole e attento al momento, perché secondo me se parti con un'idea un po' deluso rimani. Sempre. Siamo ai saluti e se volete riascoltarci venite a trovarci sul sito di Radio 24 oppure su Facebook alla pagina Radio 24 trattino la prima volta. Buona serata e buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli. Thank you.